cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24, e continuiamo con gli spettacoli online in attesa di tornare dal vivo. Partiamo da Milano, dove all'Elfo Puccini va in streaming A Christmas Carol, il racconto di Natale di Charles Dickens di Ferdinando Bruni. La celebre storia è illustrata anche dai disegni dello stesso attore. In questo periodo natalizio, alcuni di noi cercano di raccogliere dei fondi per comprare ai poveri da mangiare, da bere e qualcosa con cui scaldarsi. Quanto posso segnare a vostro nome? Niente. Oh, a voi piace mantenere l'anonimato? Mi piace non essere seccato. Il racconto di Natale è come un viaggio nel canto di Natale di Dickens, fatto di narrazione e immagini. È una specie di gioco che con l'uso della voce, con la suggestione della musica e con una serie di visioni disegnate da me restituisce tutto l'universo dei personaggi che popolano questa favola molto molto celebre. Il video della mia lettura, che è andata in scena nelle scorse stagioni nel periodo natalizio, così si dilata attraverso le immagini e ci immerge come nella Londra innevata di quella vigilia di Natale famosissima. Si inizia nell'ufficio gelido e squallido di Scrooge, poi si passa nella sua casa tetrissima, per poi partire in compagnia dei tre spiriti, il Natale passato, il Natale presente e il Natale futuro, per un viaggio nella Londra devastata dalla nascita del capitalismo, nera per il fumo delle industrie, la Londra dei palazzi splendenti e quella dei quartieri degradati, la Londra dei bambini sfruttati, quella Londra che Dickens conosceva per esperienza personale. Ho percorso tutto il racconto senza trascurare nessuna delle sue parti e mi sono solo limitato a qualche piccolo snellimento, con una certa preferenza per le parti più gotiche e nere, come per esempio l'apparizione dello spettro di Marley, il defunto socio di Scrooge, o i due bambini mostruosi, l'ignoranza e la miseria, oppure la visione orribile del cadavere di Scrooge abbandonato in una stanza squallida, con i topi che spittiscono nel muro e un gatto che soffia e che gratta la porta. Però non ho trascurato nemmeno l'allegria e le tradizioni legate a questa festività che Dickens in qualche modo resuscita, come se la reinventasse, la inventasse lui, per restituire al lettore l'atmosfera di un Natale che a volte dimentichiamo. Quello che colpisce in Dickens ancora una volta è la sua capacità straordinaria di narratore. I suoi registri cambiano ogni pagina, il comico, il grottesco, il tragico, il gotico, e lui li padroneggia tutti con una maestria assoluta. E poi l'altra cosa è la sua attenzione ai poveri, ai sofferenti, agli infelici. Spirito, ditemi, ma dimmi... All'angolo del povero focolare io vedo un posto vuoto. È una gruccetta senza proprietario. Beh, sicuramente nella galleria dei personaggi del canto di Natale è indimenticabile il piccolo Tim con la sua stampellina di legno, ma tutta la famiglia di Bob Cratchit, che è l'unico vessatissimo impiegato di Scrooge. È come se Dickens inventasse un Natale nuovo, che scavalca ogni confessione religiosa per diventare la festa della solidarietà, di una ridistribuzione più equa della ricchezza. Così finisce la storia, vedete? Tutti gli stavamo lontani per la paura quando era vivo. Così ha fatto guadagnare noi, ora che è morto. Il racconto di Natale è visibile fino al 31 dicembre sul sito dell'Elfo Puccini, www.elfo.org. Andiamo a Roma, dove ci attende ai confini dell'arte lo streaming dello spettacolo teatrale Operazione Balena, che narra del rastrellamento del Quadraro nel 1944. L'evento teatrale sarà in streaming domani 13 dicembre. Alessandra Ferraro, di Margine Operativo, il collettivo artistico che produce lo spettacolo. Quando ci chiamano, dice, chiamavano mamma che... Anna, guarda, che fa sveglia... Luigi, perché? Perché stanno papà, a fare i rastrellamenti e portano via tutti. Ci siamo svegliati tutti, eppure papà. Allora, il Quadraro fu uno dei quartieri più attivi e organizzati dell'antifascismo a Roma, e anche per questo è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile. E il 17 aprile del 1944 ci fu un rastrellamento che appunto fu denominato Operazione Balena, che scattò all'alba e che si concluse con la deportazione in Germania di 947 persone, e molti dei quali furono internati in campi di concentramento e altri furono costretti a lavorare nelle fabbriche in condizioni totalmente disumane. Fu un rastrellamento contro la popolazione civile e in un territorio che veniva definito durante la guerra il nido di vespe, proprio perché non entravano, diciamo, si diceva che a Roma, in quella porzione della città, i nazisti, i fascisti non entrarono. Sono Guido di Roma, fui rastrellato, non in casa perché ero riuscito a uscire da casa, ma sulla via centrale fui preso da altri soldati tedeschi e insieme ad altri fumo portati al cinema Quadraro, dove siamo stati registrati e rinchiusi sempre nei vagoni ferroviari chiusi. Alla drammaturgia della performance di Margio Prativo, Operazione Balena, è costruita intrecciando delle voci di protagonisti, quindi delle memorie, e con alcuni testi di alcuni storici contemporanei, tra cui Alessandro Portelli e Riccardo Sansone, che hanno lavorato a lungo sulla storia del Quadraro. Papà si è alzato, non ce la faceva perché credeva che non lo prendevano, credeva così, io gli allacciai le scarpe perché lui non ce la faceva. Stavamo tutti bambini là, i miei fratelli, a guardare questo lavoro. L'hanno preso queste scarpe. Dalle 16, preceduta da una digital walk, quindi una performance, avviene nello stesso quartiere dove è avvenuto il tutto, il Quadraro appunto a Roma. L'evento è fruibile online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Margine Operativo. Sempre a Roma, giovedì 17, c'è una serata dedicata al teatro e al mestiere dell'attore con Superficie Live Show condotta da Matteo Santilli. In streaming, sul palco di Officina Pasolini, sei attori presentano una serie di spettacoli in pillole, come ci racconta Santilli. Superficie Live Show è la serata del progetto Superficie, ossia un progetto che parla del mestiere dell'attore facendo un focus su tutti quei professionisti che lavorano indipendentemente dall'essere una star, cioè tutta quella fascia di attrici ed attori che fanno questo lavoro da tempo, hanno lavorato anche in progetti importanti ma semplicemente non sono ancora considerati dei nomi così come possono esserlo le star del mondo dello spettacolo. La superficie per l'appunto, sotto le stelle ma sopra il sommerso. Raccogli le energie e diventa vegano. Fa bene essere vegani, la soia aiuta, la soia è universale, la soia cura l'anima ed è polifunzionale, ci fai di tutto con la soia, ci fai gli spaghetti di soia, l'olio di soia, lo shampoo di soia, il disinfettante di soia, l'acido di soia, gli hamburger di soia, la carbonara di soia, le tagliatelle a ragù di soia, puoi risottare con la soia. Le performance avranno una durata breve, diciamo intorno ai 5-6 minuti l'una. Sono delle pillole, ma in quanto tali ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi principali, e cioè da un lato accendere i riflettori sugli artisti e sulla loro arte, e dall'altro creare un contenuto che possa, diciamo, stuzzicare anche chi non è un appassionato di recitazione. È vero che mi vergogno di te, con la tua piccola cattedra nel tuo piccolo liceo di periferia, e che mi invento un sacco di balle perché non voglio che miei eminenti colleghi, con i loro roboanti titoli accademici, le loro cattedre di letteratura comparata e il loro disprezzo generalizzato per i comuni mortali, ti incontrino il meno possibile, perché sai, non mi mette il giusto risalto, non mi dà la giusta luce questa moglie un po' ingrassata che ha messo su 25 kg sul culo da quando ha partorito il secondo. Per questa serata abbiamo selezionato dei pezzi che ci permettessero di mantenere uno stile teatrale senza però dimenticare le telecamere che riprenderanno il tutto. Diciamo che il punto principale per noi è la buona recitazione, al di là dei mezzi. Hai 3 lauree e non hai trovato lavoro? Fai un master. Fai un master e non hai ancora trovato lavoro? Fai il master 2. Ancora niente? Concentrati su te stesso. In diretta sulla pagina Facebook, giovedì 17 alle 21 di Officina Pasolini. Infine torniamo a Milano per scoprire un libro sul grande maestro Luca Ronconi, raccontato da chi ha lavorato con lui dietro le quinte, il quaderno delle lezioni di Luca Ronconi dalla scuola del Piccolo Teatro di Milano. Sentiamo Antonella Stolfi, insegnante, e Lisa Capaccioli, aiuto regista del maestro. Siccome dico il bello del teatro è che il giorno dopo non c'è più, è il grande vantaggio del teatro, è inutile sarà guardarsi indietro per vedere le rovine. Mi pare di poter dire che Luca Ronconi non amasse le generalizzazioni e le cose dette per come si devono fare, per come devono essere. Era una persona che scandagliava la realtà che viveva in quel momento e dunque aveva un atteggiamento di curiosità verso le persone, verso i ragazzi, verso le persone che aveva davanti, e poi cercava in ciascuno che cosa in qualche modo potesse suggerirgli dei movimenti verso il testo e verso la persona, e ogni volta era qualcosa di nuovo. Intendo dire, non è che ci fossero continue novità, evidentemente il lavoro di Ronconi, il teatro di Ronconi rispondeva a delle leggi abbastanza precise, ma ogni volta questa grammatica, queste leggi, queste regole, questo sapere poteva in qualche modo muoversi o ondulare un poco di fronte a un nuovo allievo, e questo ogni allievo, anche il meno bravo, il meno dotato, lo percepiva. Ho sempre pensato che ogni tipo di materiale può diventare teatro, un romanzo, un articolo di giornale possono diventare delle forme teatrali efficienti, e d'altra parte l'ho anche fatto. Questo non vuol dire che rifugga da quello che è un tipo di drammaturgia specificamente teatrale. Ho avuto la fortuna di studiare con lui come allieva attrice prima e poi di seguirlo negli allestimenti di alcuni spettacoli come assistente alla regia. In entrambi i casi io mi ricordo la grande emozione, l'emozione di quando si aspettava il suo arrivo e poi la sensazione di partecipare a qualcosa di grande, a qualcosa di irripetibile, sapere in ogni momento che si stava guardando proprio un genio al lavoro. Quando lui leggeva oppure interpretava i testi su cui stava lavorando, io pensavo sempre: ma come fa? Ma quello che dice lui è giusto? La cosa che dice è sempre la più bella e la più giusta. Sempre, sempre così. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast, dove troverete anche gli indirizzi streaming degli spettacoli. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.